in primo piano. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale che ci aiuta a guardare un po' fuori dall'Italia con lo sguardo o dei quotidiani stranieri o magari anche dei siti stranieri. E cominciamo da Vox Europe, che vi cito sempre, è un sito che fa un po' il nostro stesso, ha avuto un po' la nostra stessa idea, noi abbiamo avuto la loro stessa idea, cioè di monitorare la stampa straniera. E qui un articolo che prende spunto da, tra l'altro, un bellissimo progetto che si chiama European Data Journalism Network, che mette in comune i big data e cerca anche di analizzarli, perché sappiamo che il problema di avere tanti dati è che poi vanno letti questi dati, e in questo caso ci si concentra, partendo dal Digital Summit che c'è stato a Tallinn in Estonia, su il livello della digitalizzazione in Europa. L'Estonia è un paese da questo punto di vista all'avanguardia, soprattutto nella pubblica amministrazione, un paese che potrebbe insegnare, specie a noi italiani, con tutte le varie vicende che sappiamo sulla carta elettronica per tutti, che in realtà non è ancora una realtà, e su tantissimi altri aspetti che potrebbero, grazie alla tecnologia, rendere i nostri rapporti con la pubblica amministrazione un pochino più facili. Ma appunto scrive Vox Europe che gli europei sono in effetti sempre più connessi a internet, e comunque internet non è l'unico aspetto della digitalizzazione, però è un buon indicatore. E quindi a questo Digital Summit sono stati resi noti i dati di Eurostat che mostrano l'attività online degli europei in tre settori: l'utilizzo di internet in generale, le connessioni ai siti governativi e l'uso dei social network. E per quanto riguarda l'uso della rete, che forse comunque è il dato più significativo, la proporzione della popolazione dell'Unione Europea che usa regolarmente il web è cresciuta del 3% nel 2016 rispetto al 2015, quindi quasi una persona su quattro, pari al 79%, tra i 16 e i 74 anni, ha usato internet almeno una volta alla settimana. I più attivi: britannici, olandesi, lussemburghesi e danesi. Passiamo a un altro argomento che comunque è sempre legato all'Europa, e mi porta qui la copertina dell'Economist, che è intitolata Europe's New Order, quindi il nuovo ordine dell'Europa, ma il sottotitolo è A Special Report on Macron's France, perché l'avete forse sentito, io l'ho trovato un discorso davvero statista di Macron appunto sui temi dell'Europa. Macron, presidente francese, che naturalmente ha tutto l'interesse, anche vista la sua grande ambizione politica personale, ha tutto l'interesse a colmare il vuoto che il Regno Unito ha lasciato e lascerà se la Brexit andrà alla fine in porto. E dico metto un se, perché questa settimana abbiamo visto la Premier Theresa May avere quasi un mancamento proprio anche fisico nell'illustrare nel momento in cui doveva parlare anche di Brexit al Parlamento. In ogni caso, le negoziazioni lì vanno avanti, andranno avanti per molto. C'è questo vuoto perché manca appunto al tavolo dei grandi europei, manca il Regno Unito, e Macron vuole accreditarsi anche come partner privilegiato della Germania. Infatti sulla copertina dell'Economist c'è Macron sotto i riflettori, che si avvicina al microfono, e soltanto al buio, diciamo, che lo osserva però con le mani conserte, come dire, in religioso silenzio, c'è Angela Merkel. Invece, per restare in Germania, vi segnalo dalla Zeit, sapete il settimanale che vi segnalo sempre, anche perché è molto bello, anche se uno non sa bene il tedesco, proprio non lo sa per nulla, è molto bello proprio da vedere per capire quanta importanza diano alla parte grafica. Quindi l'occhio vuole la sua parte, con una grafica che è sempre al servizio, però, perché così deve essere in un giornale, secondo me, al servizio del lettore, per rendergli più facile la comprensione e la lettura dell'argomento. Molto bella la fotografia che illustra un servizio che si intitola Ich will zurück nach Deutschland, ed è la storia di una donna siriana di 31 anni che ha in braccio, lei è completamente coperta da uno di quei veli semi integrali molto simili al burka, non c'è la garza che copre gli occhi come nell'infernale, lo chiamerei così, burka, c'è però una fessura che le lascia gli occhi liberi, in braccio ai suoi due bambini, e racconta appunto il suo desiderio e la consapevolezza che può essere un'odissea il tornare dalla Siria in Germania, dove c'è parte della sua famiglia. Molto interessante anche l'intervista a Michael Haneke, che è forse uno dei più importanti registi tedeschi contemporanei, e dice, e naturalmente negli ultimi anni ha dedicato molti dei suoi film a temi che sono in qualche modo legati o alla Germania, ce n'è stato uno che richiamava comunque, e sappiamo quanto sia diventato di attualità il tema, richiamava ai tempi della prima della Seconda Guerra Mondiale, quindi al consolidarsi della leadership di Adolf Hitler e anche tutto quello che poi naturalmente ha significato culturalmente per la Germania, oltre che aver dato origine alla Seconda Guerra Mondiale. E poi, come sappiamo, qualche anno fa si è dedicato però anche a un tema molto più intimo, che è quello dell'amore tra le persone anziane, e lui dice: stiamo molto attenti perché stiamo diventando emotional blind, usa proprio il termine inglese, mischiando nel titolo, che poi prende spunto da una delle risposte che lui dà in questa intervista, mischiando tedesco e inglese: wir sind emotional blind, siamo ciechi dal punto di vista emozionale. A proposito di emozioni, ho trovato molto interessante un articolo apparso su Conversation, un magazine britannico, tradotto da Internazionale, che si intitola Come insegnare a raggiungere un obiettivo. Ecco, più che un'emozione, forse è un atteggiamento, questo della tenacia, che non è solo un tratto caratteriale, anche se in parte è anche questo. Guardare un adulto alle prese con un compito difficile che richiede uno sforzo, e vedere anche quindi tutte le emozioni che scaturiscono da queste situazioni difficili, può aiutare i bambini a imparare a perseverare. È uno studio di cui parla Conversation ed è molto interessante perché ripropone, secondo me, anche il grande tema del quanto possono imparare i bambini osservando, per esempio, i genitori. Sempre da Internazionale, vi cito un breve editoriale che è stato tradotto dal New York Times, che si intitola I rischi del referendum curdo. Sapete che il 25 settembre si è svolto questo referendum nel Kurdistan, che appartiene tecnicamente territorio dell'Iraq. C'è stato una grande affluenza e soprattutto praticamente un plebiscito per l'indipendenza, un referendum che aveva soltanto un tratto consultivo, ma che però è molto importante, scrive il New York Times. Il referendum sull'indipendenza che si è svolto il 25 settembre è stato avventato, pericoloso, è assolutamente comprensibile. Avventato perché ha alimentato speranze probabilmente irrealistiche, non solo tra i curdi in Iraq, ma anche tra quelli in Iran, Turchia e Siria, perché sapete che il Kurdistan è appunto quello che viene definito l'unico paese senza una nazione o l'unica nazione senza un paese, perché è appunto diviso in quattro diversi paesi diversi: Iraq, Iran, Turchia e Siria. Continua il New York Times: il referendum è stato pericoloso perché ha fatto scattare diversi allarmi in una delle regioni meno stabili del pianeta. Comprensibile, perché pochi popoli hanno sognato l'indipendenza tanto a lungo, hanno pagato un prezzo così alto e hanno ottenuto così poco. Passiamo a un altro argomento e torniamo su un giornale tedesco, la Süddeutsche Zeitung, che parla in questo caso di immigrazione. La Süddeutsche Zeitung ha pubblicato una lunga intervista al nostro ministro dell'interno Marco Minniti, che sta riscuotendo molto interesse ma anche molta buona stampa, potremmo dire così, all'estero. Perché? Perché lo si giudica sulle parole ma anche sui risultati. E quindi in questa intervista Minniti dice: per la chiusura della rotta balcanica l'Europa ha pagato una somma di denaro enorme, adesso si dovrebbe pagare altrettanto per Libia e Africa. Il ministro dell'interno Minniti, appunto, in un articolo che viene intitolato L'uomo d'acciaio, e in cui fioccano poi altre definizioni molto giornalistiche tipo guardiano degli scafisti, Minniti spiega che in meno di un anno è riuscito a governare il flusso dei migranti in arrivo dalla rotta libica. Nessun ministro del governo è popolare come questo ex comunista, così scrive la Süddeutsche Zeitung, che ora fa parte del Partito Democratico. E veramente mi immagino quanto potrebbe essere difficile spiegare ai lettori tedeschi appunto l'evoluzione dell'ex PC, poi diventato PDS, poi DS. Adesso sappiamo che in Parlamento ci sono 5 partiti di sinistra e che forse si divideranno ulteriormente. Dalla Frankfurt Allgemeine Zeitung una notizia decisamente più leggera riguarda Boris Becker, grandissimo tennista, è stato un idolo per la Germania. Non si capisce bene come ci sia riuscito, ma ha accumulato 61 milioni di euro di debiti. Deve soldi a tutti, compreso il suo avvocato che sta cercando di mettere all'asta, per esempio, alcuni memorabilia per pagare i creditori più insistenti. Ultimissima segnalazione ve la faccio dai giornali francesi che sono tornati sulla questione dei cantieri STX. Sapete, c'è stato un accordo che alla fine dà questo 1% quasi simbolico a Fincantieri, che però sarà sottoposta a rigidi controlli per vedere se gestisce bene questa fusione con i cantieri francesi, e comunque se ne parla ancora molto. È un tema sensibile in Francia, anche se tutti hanno l'interesse che l'ingresso di Fincantieri dia un futuro più solido a STX, che erano appunto cantieri in forte crisi. Era l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.